Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Giulio Caperdoni. Giulio Caperdoni con il quarto volume di Eclettica, il quarto volume della settimana che ne vede sempre 5, un'ora, dalle 19 alle 20, divisi in due parti da 30 minuti ciascuna. Questa è anche la divisione con cui li ritrovate grazie al podcasting e poi ve li potete tenere nella vostra biblioteca digitale, andarli a ripescare quando volete riascoltare qualcosa. Per sapere qual è il volume giusto, poi esiste la playlist, playlist che viene pubblicata ogni fine settimana, la trovate su myspace.com/eclettica oppure direttamente nella casella di posta, nel caso vi iscriviate alla lista nera. Per iscriversi basta mandare un mail a giulio@radiorockfm.com. Ed ora andiamo ad iniziare. Buonasera! Buonasera, da quanto tempo? Come va? Lo zio, in maniche di camicia e con certi pantaloni in carta pecoriti che gli torcevano le gambe come quelle dei cavallerizzi, reggendo la porta con una mano, con l'altra faceva grandi gesti di benvenuto e poi di invito ad entrare. Dietro di lui, come in un affresco del ghirlandaio, si vedevano spuntare le teste degli altri componenti la famiglia. La zia, il cugino, la cugina, il piccolo figlio di costei, sul cui capo si espandevano larghe croste di sudicio e che rideva fra le braccia della mamma con un'aria di furberia abortita. Da ultimo, la zucca morbosamente apatica del fratello della zia. Questo era l'incipit di La pietra lunare di Tommaso Landolfi. Of gold in the sky above the old rodeo. As I roll off my prison mattress and I drink from the station house sink, I can see that blotter in the water with my name bleeding newspaper ink. She was long, white legs and diamonds. I was a Long Island lawyer in black. I should have known as we walked through the World's Fair that she'd die with a knife in the back. Oh,

nel futuro. Comunque è la chiusura di un lungo periodo, di un periodo che è durato 18 anni. Ci sono stati dei grandi cambiamenti anche dal punto di vista delle scelte artistiche, dell'impostazione editoriale nell'ultima fase, ma comunque Rock FM sta arrivando alla fine di un ciclo. Poi ancora non possiamo dire quello che sarà. Sicuramente possiamo dire che ci sarà una data finale, una data di chiusura, ci sarà una grande celebrazione. E per prepararci a quella celebrazione ci aiutano anche le vostre parole. Saranno più avanti nel corso di Eclettica. Per il momento vi ricordo che vi siete appena ascoltati The Felicity Brothers con Sant'Antonio's Burning, poi seguiti dal francese Don Cavalli con New Hollywood Babylon. E si ritorna negli stessi Stati Uniti dei The Felicity Brothers con il nuovo The Willard Grant Conspiracy, una formazione che gira attorno alla figura di Robert Fisher, che è andata a registrare il suo ultimo disco a Glasgow, in Scozia. Disco intitolato Pilgrim Road, che uscirà nel mese di maggio. Un disco che si basa molto sugli strumentali e sull'orchestra. Infatti sono pronti per partire per il mondo con un tour orchestrale che condivideranno assieme a Howie Gelb. Willard Grant Conspiracy, quindi, da Pilgrim Road, loro nuovo album in uscita a maggio. Questa è Phoebe. La guerra mi aveva sospinto, all'epoca di questa storia, lontano dai miei abituali luoghi di residenza. Due formidabili eserciti stranieri si scontravano allora sul nostro suolo, conducendo una campagna cruenta e che parve infinita alla maggior parte della popolazione, la quale ne fu, come si immagina, direttamente e barbaramente danneggiata. Inoltre, le esose pretese in uomini e materiali d'uno di questi eserciti, l'invasore, che lentamente si andava ritirando attraverso il paese davanti all'altro, detto liberatore, nonché spirito patriottico o compromissione politica, costrinsero numerosissime persone a cercare rifugio per lunghi mesi o anche per anni in posti selvaggi e discosti dalle grandi strade, abbandonando i propri interessi, i propri averi e le famiglie medesime, dove coloro che ne avevano la possibilità o se ne sentirono il genio si organizzarono per una resistenza armata o addirittura per l'offesa. Altri resisterono almeno passivamente all'imposizione degli invasori. Altri, infine, badarono soltanto al togliersi dal folto della mischia. Questo era l'incipit di Racconto d'autunno di Tommaso Landolfi. Publicity campaign being planned. Publicity? They can make a fool out of Lena Lamont. They can make a laughing stock out of Lena Lamont. What do they think I am, dumb or something? Well, I make more money than Calvin Coolidge put together. Thank you. una manciata di minuti e si chiude quella che è la prima parte per quanto riguarda quest'oggi di Eclettica. Si chiude con la Svezia dopo che ci siamo ascoltati in sequenza Jim Noir con Don't You Worry e poi ancora Shearwater con Rooks. Si chiude con la Svezia in quanto è il momento del secondo album degli Shout Out Louds che escono per Home Sleep Music per quanto riguarda il mercato italiano. Our Ill Wills è il titolo della loro seconda prova che segue quella d'esordio che si titolava, vi ricordo, Howl Howl Gaff Gaff. Questa nuova prova è prodotta da Björn Yttling, che è anche conosciuto come il Björn che sta fra Peter e John. Il brano che io ho scelto è la traccia numero 6 delle 14 in totale. Si tratta di Impossible. Your love is something. just like your mother. I'm just the same as the others. Do you believe everything they write in all those magazines? Stay out of love until you're ready. Stay out of it, cause it scares you. You'll still find your lover inside the public library. I know it could happen to you. I know it could happen to you.